Il governo ha fatto e farà la sua parte. Nella persona del Ministro dell'Economia ha assunto l'impegno, alle condizioni che ho sopra ricordato, ad aderire all'offerta di Air France KLM. Esso ha anche comunicato al Presidente Prato la propria disponibilità a concedere un prestito ponte alla società a fronte dell'effettivo concretizzarsi di una prospettiva di risanamento economico e industriale, purché in altri termini esso risulti l'ultima condizione per l'efficacia dell'accordo tra l'Italia e Air France. Sia chiaro, al di fuori di una conclusione positiva del negoziato in corso, un prestito ponte, anche a prescindere dai chiari profili di illegittimità comunitaria, non sarebbe praticabile. Non sarebbe praticabile.